Ciao a tutte e ciao a tutti. Allora, quest'estate abbiamo fatto due puntate di riflessioni femministe sulla scuola, che potete trovare sul nostro blog, cercando o scuola oppure riflessioni femministe. E ci eravamo ripromesse di farne una terza, perché volevamo incentrare il discorso sulla scuola e la guerra, viste anche la guerra in Ucraina, che era un argomento particolarmente presente. Ora, vista la situazione in Palestina, in cui una popolazione stremata da anni e anni di occupazione viene presentata come l'aggressore e viene diffusa ovunque, scuola compresa, una narrazione ufficiale tendenziosa e spudoratamente falsa, ci è sembrato il momento, quanto mai importante come momento, di affrontare proprio il tema della scuola e la guerra. Esatto. Quindi, c'è da un po' di tempo la tendenza, qui in Italia, ma è un discorso, europeo e non solo, diciamo occidentale, di militarizzare tutta la società e, di militarizzare anche la scuola in un crescendo piuttosto impressionante perché ci sono segnalazioni da ogni parte d'Italia. È stato addirittura, costituito un osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. Perché? Perché ci si è resi conto della gravità di questa ingerenza, della gravità di questa situazione. Allora, la difesa, il Ministero della Difesa e la difesa da tempo sta investendo tantissimo nei rapporti con la società civile. Cioè, mentre una volta l'esercito era qualcosa di staccato, che stava per conto suo ed era visto come qualcosa, diciamo, fuori dalla società civile, a margine della società civile. Al di là del giudizio che uno poteva dare, però adesso invece la difesa sta da tempo investendo per far entrare l'idea della militarizzazione e un'idea positiva di tutto quello che è militare nella società civile. Allora, ultimamente, proprio recentemente, il ministro Crosetto ha rilanciato quella che è stata chiamata valorizzazione della cultura della difesa attraverso un comitato ad hoc. Però sarebbe un errore pensare che questo tipo di iniziativa venga dal fatto che c'è un governo di destra e Esatto, comunque di sì. stampo fascista. Perché invece questo discorso è cominciato tanti anni fa ed è stato praticamente uno dei cardini su cui man mano si è sviluppata la cultura dagli anni 80 in poi. Infatti mi dicevi che c'è una legge del Del 2010. 2010 che appunto in cui partiva questo progetto per portare armi e cultura militare nella scuola che si chiamava Allenati per la vita. Questo progetto in realtà esiste ancora, penso che abbia cambiato vari nomi e penso che sia adesso quello di cui stavamo facendo riferimento del Comitato per lo Sviluppo e la Valorizzazione della Cultura della Difesa, sia diventato questo. Allora ti passo la mano dopo quando parliamo dello Sì. specifico delle scuole. Allora, ma perché è successo questo? Io mi ricordo che, non dico nella narrazione degli anni 70, 60 e 70, ma anche prima nella narrazione dell'Italia repubblicana, il campo militare era qualcosa che stava fuori dalla società civile e anche l'ingerenza, anzi, del militare nella cultura in senso lato, nelle università, nelle scuole era visto molto male perché non c'era una cultura che possiamo definire poi di tipo americano, no? Che il professore universitario è disposto a collaborare con la la struttura militare, addirittura con i servizi. Qui in Italia era visto molto male l'intellettuale o comunque l'uomo di cultura, la persona di cultura o comunque un certo tipo di società civile non aveva a che fare con il militare. Invece, man mano, si è venuto modificando il rapporto del militare con la società civile, perché è stata proprio una scelta che la società neoliberista, che il capitalismo neoliberista ha impostato proprio. Tant'è vero che possiamo far risalire questo cambiamento dopo la caduta del muro di Berlino, perché è successo che dopo la caduta del muro di Berlino si sono susseguite tutta una serie di operazioni militari che hanno visto per esempio la NATO in primissima fila, dalla guerra alla Jugoslavia, il Kosovo, l'Afghanistan, l'Iraq e l'ultima di tutte la Libia, perché poi invece in Siria è cambiato già qualche cosa. Allora, questo tipo di guerre, le cosiddette guerre umanitarie, erano guerre asimmetriche, cioè l'Occidente si arrogava il diritto di andare in paesi estremamente più deboli, quindi che non avevano nessun modo di mettersi alla pari in qualsiasi tipo di organizzazione militare con l'Occidente, e destabilizzare per i propri interessi questi paesi. Questo tipo di guerre, appunto, venivano chiamate da loro guerre umanitarie. Perché? Perché dovevano presentarsi nei confronti della popolazione come delle guerre che non erano guerre di conquista, non erano guerre di aggressione, erano guerre per tutelare i diritti civili, tutelare le donne, tutelare le popolazioni da dittature cattivissime, improponibili, che ledevano la democrazia, i diritti civili e compagnia bella, e quindi preparavano nella popolazione un immaginario positivo di queste aggressioni. Che cosa è successo? Che man mano si sono accorti però che era necessario coinvolgere la popolazione. Tant'è vero, anche nel testo della NATO Urban Operation 2020, uno degli aspetti che viene tenuto in considerazione e sempre presente è come coinvolgere la popolazione civile in maniera positiva nelle situazioni militari, come avere anche l'appoggio della popolazione civile e come avere supporto e essere trascinare la popolazione dalla propria parte, in modo che i militari non vengano visti come qualcosa di estraneo, ma come qualcosa che fa del bene per il popolo a cui si riferisce. Questo tipo di impostazione chiaramente che cosa presuppone? Presuppone che l'esercito, annessi e connessi, perché questo riguarda anche le polizie, riguarda anche tutto l'apparato di militare di controllo in senso lato, compresi i vigili urbani tra l'altro, richiede che la popolazione si senta tutelata, per cui loro hanno cominciato a fare operazioni militari, con i militari operazioni di volontariato, i militari partecipano nelle operazioni di protezione civile, nelle zone terremotate, no? C'è tutta una narrazione di questo tipo, e per esempio è stata varata strade sicure quando c'è stato anche il problema della violenza sulle donne, no? Assolutamente. Poi ricordiamoci che comunque noi siamo l'unico paese europeo e forse mondiale ad avere un corpo che è quello dei carabinieri, che è proprio un corpo che è a metà tra il militare e il civile, cioè il rapporto con i civili, e quindi noi siamo, diciamo, da questo punto di vista militare l'eccellenza in queste guerre umanitarie, soprattutto per esempio in Afghanistan, venivano mandati appunto carabinieri, perché erano specializzati proprio nel rapporto con la popolazione civile. Sì. Allora, detto questo, che cosa è successo? Che man mano però questo tipo di guerra, di guerra è cambiato, cioè da guerre asimmetriche, per esempio la guerra in Ucraina si è rivelata una guerra a tutti gli effetti. No? È una guerra che la NATO e gli Stati Uniti stanno portando avanti per interposta persona, cioè combattendo sul suolo ucraino, però per una, un problema di dominio mondiale, cioè il problema del dominio occidentale, il problema della tutela del dollaro come moneta di interscambio, la tutela dei mercati occidentali. Quindi è una guerra a tutti gli effetti con quelli che secondo loro considerano potenze emergenti e pericolose. Allora, in questo senso, le guerre che cosa comportano? Comportano una ricaduta importante sulla popolazione, per cui ancora di più c'è bisogno del consenso. C'è bisogno del consenso, c'è bisogno della partecipazione, c'è bisogno del fatto di far vedere che le forze armate in tutti, a tutti i livelli sono positive, lavorano per il nostro bene, fanno parte della società, fanno parte integrante della società, non sono qualcosa di esterno. Addirittura ultimamente, comunque ci teniamo sempre a ribadire che non è un discorso di destra, bensì è un discorso neoliberista che tutti i governi hanno portato avanti. Si sono rimbalzati, ognuno a modo suo e ognuno a seconda della propria sensibilità più specifica, un intervento specifico in questo senso. Tant'è vero che poi ultimamente addirittura si era ventilata, non so se poi è stata fatta, ma una task force di donne della polizia che doveva andare a parlare nelle scuole della violenza di genere. Avevano ventilato questa cosa, adesso non so se la faranno, se l'hanno fatta, se l'hanno proposta, però è abbastanza grave. E anche sul bullismo nelle scuole, che la polizia doveva andare a spiegare ai ragazzi come comportarsi riguardo al bullismo, eccetera, eccetera, che poi chiaramente chi è depositario della cultura repressiva e violenta va a parlare ai giovani di una cultura non repressiva e non violenta, no? Vabbè, al di là di questa cosa assolutamente, però capire le cose come vanno è molto importante. Allora, questo intervento dell'esercito sul territorio, tant'è vero che noi sappiamo che se ci giriamo lo sguardo in città ci sono le camionette dell'esercito in tutte le piazze del centro storico, nella metropolitana, le polizie in ogni dove per strada, quindi il territorio è militarizzato e ci vogliono abituare a una visione militarizzata del territorio. In più adesso, cioè, hanno incentivato questo discorso nelle scuole, incentivato perché, come dicevamo, è cominciato già da un bel po' di tempo fa, però adesso sta addirittura prendendo una piega ancora più importante. Passo la parola a Noemi, che ha un'esperienza diretta di tipo nelle scuole. Sì, vi posso fare degli esempi. Sì, appunto, come dicevamo prima, già dal 2010 c'è proprio un progetto per le scuole, e che si è fatto dalla destra, ma insomma non si sono inventati niente, hanno applicato semplicemente qualcosa che già era iniziato con strade sicure, insomma, sì, cioè il terreno era già stato preparato, quindi quello era semplicemente lo step che riguardava la scuola, tra l'altro con un programma pure abbastanza allettante, ovviamente un po' ricorda, comunque il modello è, come diceva Elisabetta, è quello statunitense, e quindi è un modello dove appunto viene proposto una didattica per la cultura della difesa, che è quella appunto sia fisica, che quindi insegna appunto la parte ginnica di preparazione atletica, poi c'è quindi nuoto, salvaggio, salvamento, orienteering, quella cosa che fanno pure gli scout, dove tu praticamente con una mappa, una bussola e non so, tipo MacGyver, riesci a capire dove andare, che ne so, in un bosco, in una giungla, eccetera. Cioè, insomma, è accattivante, tra l'altro. È molto accattivante, anche appunto, cioè nel senso che appunto c'è il nuoto, c'è il tiro con l'arco, c'è l'uso della pistola ad aria, cioè sono cose comunque che per esempio a me personalmente mi divertono, perché sono una persona che ama fare sport e quindi arrampicata pure, che va molto di moda tra l'altro adesso, e quindi ovviamente sono stati molto furbi nel presentare questi piani e questi progetti scolastici in questo modo. Cioè, non è che hanno, si sono messi lì a parlare di strategia tattica militare, ma hanno comunque tentato di preparare appunto di crescere i nuovi e futuri, anche se ovviamente nei primi anni 10 non si parlava ancora di arruolamento, ma si preparava il terreno per la militarizzazione. Un altro punto che, per esempio, sempre per rimarcare il fatto che si tratta di neoliberismo e non di destre che stanno avanzando, come la vulgata vorrebbe, sarebbe tanto bello fosse così, perché sarebbe più facile intercettare il nemico, invece il nemico è un po' più camuffato, prova a camuffarsi per alcuni, noi diciamo che l'abbiamo messo a fuoco. Esiste un libro del 2012 che trovai in libreria all'epoca, e sono andata a ricercarlo, lo trovate anche online, comunque dei pezzi del libro si trovano, di Achille Serra. Non so se ricordate chi era Achille Serra. Achille Serra stava nella Digos, era un capo della polizia, cioè nel senso uno dei nostri acerrimi nemici, ci ha fatto proprio la guerra, e soprattutto agli studenti, cioè nel senso il lavoro di Achille Serra nei confronti dei collettivi studenteschi è stato serrato, appunto, a proposito del nome. E Achille Serra è un politico del PD, ecco. Quindi insomma, per ricordarvi, nel libro lui parla di legalità, dove fa ovviamente un excursus partendo dalla sua storia personale, vabbè, insomma un po' romanzata così, sia proprio, mi sembra, La legalità spiegata ai ragazzi, quindi non sono manco scerbellati troppo sul nome del libro. E poi c'è una parte sulle droghe, una parte proprio che spiega i vari corpi militari, cioè nel senso i vari corpi che si occupano di legalità, quindi che so, ci mette pure i vigili del fuoco lui, mi sa, e vabbè la polizia, i carabinieri, ci sono i disegnini con pure le uniformi, no? Quindi insomma prova ad essere accattivante. Il libro fa cagare, ve lo giuro, anche dal punto di vista semplicemente grafico è la cosa più orribile mai vista. Però comunque al di là poi che sia stato venduto o sia diventato un best seller, comunque qualcuno l'ha usato questo libro per parlare di legalità nelle scuole, certo. Quindi come adesso questi piccoli progetti sono stati fatti in alcune scuole di Catania, di mi sembra Belluno, Bolzano, cioè ci sono varie città che hanno avuto appunto insomma, negli ultimi anni, 2022-2023, ci sono stati appunto, sono aumentati questi piccoli progetti che ovviamente non sono nella didattica nazionale, perché ci ricordiamo che comunque le scuole, grazie anche alla sinistra, sono diventate praticamente delle aziende, e le aziende sono autonome nelle proprie decisioni, per cui i piani didattici, i PTOF, i PCTO, che sono l'alternanza scuola-lavoro, e tutte queste belle cose che se le ha inventate la sinistra, ricordiamo, cioè quella che si vuole chiamare sinistra, hanno fatto sì che appunto questi piccoli progetti, che partono magari dalle dirigenti scolastiche, da professori e professoresse che sono, insomma, no, credono in questi principi. Patria, nazione, sacrificio, coraggio, dedizione, amore per la bandiera, inno da cantare. Esatto, anche perché questa storia della legalità, La sinistra come l'ha fatta passare? Perché insomma bisogna dire che il passaggio, cioè, a nostro avviso questo è stato uno dei modi in cui la sinistra si è giustificata o comunque si è fatta un po', si è imbellettata sul discorso della militarizzazione e della legalità nelle scuole, dandosi un tono differente da quello che è appunto la patria e nazione fascista, no? Cioè, certo, ha provato a discostarsi da quel discorso creandone uno nuovo ad hoc, che era appunto filo americano, certo, perché ha quella connotazione, no? E, cosa hanno usato la sinistra italiana? La mafia. Ah, certo. La mafia è stato, diciamo, il baluardo con cui la sinistra, prima IDS, poi il PD, eccetera, sono entrate nelle scuole per poter cominciare a parlare di legalità. Certo. Ovviamente, no? E quindi e anche di controllo del territorio, certo, di sicurezza territoriale, di importanza del... Che vai a dire qualcosa che certo, te non sei contro la mafia, e poi non ci ricordiamo certo mai che la mafia è lo Stato, e quindi cioè, il problema sta là, non è che è solo il criminale che sta fuori, ma è nel nucleo centrale il problema, ma vabbè, facciamo finta che invece sono solo criminali, capito? Così, che nascono per caso. Sì, ma è molto romanzata la storia della mafia. Devo dire che sono stata recentemente in Sicilia e si sente molto questo discorso legalitario. Per dire una cosa, insomma, ti sbattono per esempio la figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa a destra e manca, ecco, che a me mi si è ribaltato un attimo lo stomaco, però esatto. Quindi appunto hanno usato questo perché era un discorso facile e comprensibile a chiunque, nessuno certo si mette contro la mafia, nessuno ti dice che la mafia è giusta, e quindi se tu giustifichi questo, ovviamente nella prima certo fase, progetti di questo tipo dicendo che è contro il bullismo, è contro la droga, è contro la mafia, certo, ovviamente. E poi la violenza sulle donne non ce la dimentichiamo, no, certo, perché è un grimaldello attraverso cui stanno facendo passare delle cose aberranti, sia come controllo sia come discorso nelle giovani generazioni. Quindi dalle telecamere, ai braccialetti, alle app di tracciamento per chiamare più velocemente, c'è, aiuto in caso di, esatto, di paura, o le security private, ricordiamo Milano per esempio, che nella zona universitaria della Bocconi, per proteggere i giovani che si sentivano insicuri, stiamo parlando mi sembra dell'anno scorso se non erro, comunque insomma stiamo parlando post-covid, quindi insomma abbastanza recentemente, e la Bocconi pagava per i suoi studenti la security per l'area, diciamo, intorno alla zona universitaria, cioè, per controllare i parchetti la sera, affinché i loro studenti che pagano fior fior di quattrini per laurearsi in Bocconi si sentissero sicuri, perché anche lì Milano, che insomma è capofila, diciamo, di questo discorso sul controllo, la sicurezza, certo, la legalità, Sala, diciamo che è un grande fautore, insomma, di questo discorso. Sì, sì. E c'è stato un momento, proprio si trattava di scippi, cioè non è che stiamo a parlare di attentati, cioè, mortali, ragazzi miei, cioè nel senso, anche perché bisogna anche poi riportare un po' il discorso a quello che è la realtà, cioè non viviamo veramente una guerra guerreggiata, cioè stiamo parlando comunque di piccoli casi di appunto furti, rapine piccoline, niente di che. Però vabbè, insomma, a Milano c'era stato tutto un... i media e la politica hanno messo su tutto un teatrino molto ben costruito, ben sponsorizzato sui social, partendo appunto dall'università, quindi insomma sempre di istruzione e di formazione stiamo parlando, per dire che appunto la generazione dei più giovani non si sentiva sicura a camminare per le strade di Milano. Ecco, poveri. Una cosa che mi ha colpito tantissimo facendo un discorso proprio, diciamo, lineare dai più piccoli ai più grandi, è una notizia che ho letto l'altro giorno, anzi è una notizia che ha mandato Noemi, ci ha mandato Noemi, che a Messina, non vorrei dire un'eresia, l'esercito ha varato un progetto che è stato fatto e approvato di asili nido, il cui è stato aperto il primo asilo nido, che si chiama Lupetto Vittorio. No, io, cioè, questo asilo Lupetto Vittorio è aperto ai bambini dell'esercito, di tutte le forze armate varie e anche ai cittadini comuni, per poter far capire l'importanza delle forze armate fino dalle primissime, dai primissimi anni di vita, perché i bambini si possano identificare con i militari e possano desiderare di fare il soldato. Anche perché c'è un progetto, tra l'altro, lo sapete che noi adesso non abbiamo la leva obbligatoria, no? Però c'è un progetto di creare una, diciamo, un servizio militare fatto da civili che si dichiarano disponibili a prestarsi tipo militari di riserva, vengono addestrati, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi nazionale, in questi casi possono essere richiamati, però tutto questo viene da una propaganda e da una sollecitazione già nelle scuole, perché a nessuno verrebbe in mente di mettersi a fare la riserva, militare di riserva a servizio della patria se non venisse adeguatamente istruito per anni a questa funzione. E quindi c'è questo progetto che prevede anche una forte implementazione della presenza dei militari nelle scuole italiane per propaganda, per informazione, dicono loro, no? Esatto, lo scopo sembra quello di arruolare, quindi è proprio un modello americano. Per farvi un breve riassunto di come funziona in America, sono andata a vedere un po' come funziona. Praticamente, quando tu ti arruoli, hai delle agevolazioni scolastiche, quindi chi vuole frequentare il college, ricordiamo che noi ancora abbiamo delle tasse universitarie. Comunque, e dei licei che sono pubblici, quindi in teoria, insomma, diciamo sono più o meno accessibili, anche se non è vero perché comunque c'è una tassa regionale da pagare al liceo, ci sono comunque la spesa dei libri, insomma, non è gratuita la No. scuola italiana, cioè è pubblica, ma non è del tutto gratuita. Ci sono Certo. agevolazioni, ma vi assicuro che per riuscire a avere i libri gratuiti bisogna, non so, votarsi ai santi. Bisogna fare dichiarazione di povertà estrema. Io vivo Sì. sotto i ponti, allora voglio che non si Sì, tra l'altro bisogna capisce. appunto, cioè, anche la contraddizione di dichiarare che non si guadagna, però poi ti vengono anche a dire: ma com'è possibile che tu non guadagni niente, non esiste, perché Esatto. se no non potresti campare, e tu dici Ah, ah, ah. sì, però è vero perché magari i calcoli fanno sì che tu praticamente sei nella fascia più bassa, ma comunque a volte non basta nemmeno per avere libri gratuiti. E comunque, parentesi, i libri che vengono dati a chi sta nella soglia proprio di povertà più bassa, sono libri vecchissimi e in condizioni Pietose. pietose, lo so perché mi ricordo, insomma, di averli visti e è assurdo. Ma appunto vi sto dicendo come funziona questa cosa dell'arruolamento americano. E praticamente le tasse universitarie dei college, anche quelli diciamo pubblici, chiamati così, americani, quindi non stiamo parlando di Harvard o insomma della Ivy League, quella chiamata così, che sono le migliori università americane. Le università, qualsiasi college, qualsiasi, quelli che valgono molto poco, Comunque costano migliaia e migliaia di dollari e tutti gli studenti fanno il debito universitario, quindi hanno loro, considerate che loro cominciano il college a 17-18 anni prima di noi e già da quel momento loro hanno un debito nei confronti della società, a meno che non abbiano famiglie che hanno messo da parte i soldi, non si sa come, perché stiamo parlando veramente di decine di migliaia di dollari per prendere una laurea. E quindi molto spesso l'esercito, cioè non molto spesso, l'esercito ti propone di pagare il debito universitario nel momento in cui tu ti arruoli. E ci sono anche dei percorsi in cui tu puoi studiare all'interno dei vari corpi militari, che ne so, Marines, Navy, quello che è. Tu all'interno di questi corpi puoi continuare a specializzarti, a studiare, che ne so, ingegneria piuttosto che biologia o comunque insomma quello che serve ovviamente al corpo militare e gratuitamente, cioè nel senso te pagano loro per farlo. Poi ovviamente hai il lavoro assicurato perché poi rimani nello stesso circuito e quindi rimani là, anche se loro ti dicono che tu te ne puoi andare quando vuoi, ovviamente. Bisognerebbe fare ricerche poi di chi se ne, magari se n'è andato una volta capito, no? Certo. L'inganno, però non ho notizie di questa roba ancora. E quindi, insomma, la soglia di povertà in America è molto ampia, molto più Sì, ampia che sì, sì. qui in Europa, in Italia, e tanti ricorrono all'esercito. Per poter studiare, per poter trovare un lavoro, quindi già dai 17-18 anni. In più, cosa che appunto una compagna ci raccontava, che già comincia ad esserci anche nell'Università della Sapienza, che nelle università invece americane c'è cioè già dagli anni 80, che era l'arruolamento a seconda, cioè nel senso l'università è in contatto con i militari, con i vari corpi, quindi con le alte dirigenze, e segnala i suoi migliori studenti. Compresa la NATO. Esatto. E quindi sono loro che ti vengono ad arruolare, ti vengono a chiedere di arruolarti con loro perché hanno bisogno delle tue Di competenze. qualsiasi tipo, poi, non soltanto quelle tecniche, ma anche psicologi, storici, perché la narrazione di questo tipo deve essere a tutto campo, devono avere Certo. una sponda in ogni dove, no? E questo che racconta Noemi è una cosa molto pericolosa e molto importante, perché infatti anche in questo, nelle proposte che stanno ventilando adesso, hanno pensato di inserire, per esempio, incentivi per la laurea, tipo punti per la maturità, anche per tutti i tipi di scuola, no? Oltre che gli incentivi per la laurea, come un anno in più, un vantaggio a livello di formazione, punteggi aggiuntivi per i concorsi pubblici, che sono tutte cose che i ragazzi che possono interessare i ragazzi, no? Sia nel percorso di studio che nel percorso lavorativo. Ed è una cosa oltretutto molto pericolosa, perché questi si rendono conto soltanto dopo di essere legati a doppio filo in caso di conflitto, perché in caso di conflitto vengono richiamate queste persone che si sono, questi ragazzi e ragazze che si sono diciamo resi disponibili a questo tipo di discorso. Quindi l'attenzione nei confronti della scuola dal punto di vista del potere neoliberista in tutte le sue manifestazioni, che si parli di destra, si parli di sinistra, si parli di qualsiasi altro aspetto democraticamente espresso, perché ormai i riferimenti di base all'interno dell'arco partitico e parlamentare sono assolutamente identici, poi ci sono delle sfumature a seconda della collocazione di partito. Bene, è molto pericoloso perché questa attenzione è generalizzata, è pressante, la militarizzazione dei territori si sta accompagnando alla militarizzazione della scuola e questo l'importanza che stanno dando alla formazione delle giovani generazioni dovrebbe metterci in grande allarme. E diciamo che noi ci rivolgiamo come al solito a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che ci ascoltano, perché il problema è che la scuola però è fatta da presidi, da professori, da insegnanti, da maestre, a tutti i livelli di formazione, dalle elementari all'università. Anche prima, perché vi assicuro che anche all'asilo comunque cominciano a parlare. Ora sembra una cosa, tra virgolette, innocente e poco importante, però nel momento in cui si parla di educazione stradale e quindi magari non viene il vigile, però magari invece in alcune scuole verrà pure il vigile a insegnarti come comportarti per strada, diciamo che quello è il primo tassello che viene messo per far sì che poi sia normalizzata la presenza comunque di forze dell'ordine all'interno della scuola. Quindi non importa che stiamo parlando di cartelli stradali, che di per sé uno può anche passarci sopra, ma comunque mantenere l'attenzione, e nel momento in cui si ha a che fare con la scuola da ogni punto di vista, comunque tentare di arginare il più possibile il fatto che le forze armate vadano a insegnare o a tenere lezioni di qualsivoglia materia all'interno della scuola pubblica. Certo, a parte che nella scuola pubblica non ci dovrebbe entrare nessuno, nessuno. Perché il discorso di far entrare nella scuola pubblica delle soggettività esterne che vengono a raccontarti come stanno le cose è un'arma a doppio taglio, tant'è vero che questa è cominciata anni fa con facciamo entrare l'associazionismo, e poi è finita con il banchetto dei militari, per cui nella scuola non entra nessuno. Però la responsabilità grande è di chi la scuola ce la dovrebbe avere in mano. Noi non ci stanchiamo di ripeterlo, che ci sono gli insegnanti, ci sono i dirigenti, ci sono i presidi, ci sono anche il personale ATA, chiunque all'interno della scuola, i genitori, tutto un mondo che ha una responsabilità rispetto a questo. Non vogliamo fare la morale a nessuno, a nessuno e a nessuna, per carità. Però ricordiamoci sempre che non è che possiamo delegare agli altri la risoluzione dei problemi. Cioè bisogna affrontarli in prima persona, ecco. Organizzarsi, affrontarli in prima persona, essere attivi ed essere sempre in guardia, perché il potere ha una caratteristica che riesce attraverso i canali di informazione, che poi l'informazione adesso è assolutamente tutta asservita, cioè non è neanche, una volta si diceva che l'informazione era di parte, no? Che era asservita, e quindi c'erano quelli di destra, c'erano quelli di sinistra. Adesso l'informazione a tutti i livelli è parte integrante del sistema, è uno dei canali attraverso cui il sistema si propaganda e si esplicita. Quindi massima attenzione, massima allerta, e cerchiamo di fare in modo. Esatto, anche perché questo un'ultima chiosa, nel momento in cui poi nell'attualità, per esempio nelle scuole, perché poi questo è il discorso ovviamente più guerrafondaio, no? Quello della presenza del militare, dell'arruolamento, la militarizzazione, eccetera. Però c'è anche un'altra, diciamo, un altro pezzetto della medaglia, che è quello che è il discorso sulla pace, no? Perché poi il discorso della pace è un discorso in realtà che è un'arma a doppio taglio, perché anche dire che si è pacifisti, soprattutto questo è un dibattito interno al femminismo da sua origine, e, in cui molte femministe si sono sempre dichiarate pacifiste, noi siamo convinte che comunque invece bisogna essere di parte, quindi scegliere da che parte stare, e questo significa anche che la violenza, la reazione all'oppressione sia comunque necessaria e dovuta, e E quindi parlare di pace può essere comunque un modo per traviare il discorso e comunque riportarlo proprio su questo binario della militarizzazione. E pensiamo appunto al fatto che nelle scuole, anche insomma scuole come gli asili, le elementari, eccetera, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, per esempio c'era la consuetudine di fare delle cartoline da mandare all'ONU, scritte dai bambini o disegnate dai bambini per richiedere la pace. E questa cosa era una cosa molto ipocrita perché ovviamente non viene raccontata perché, appunto, come diceva Elisabetta, i media sono schierati Assolutamente. con il sistema, per cui ovviamente non veniva affrontato il discorso sulla guerra in maniera strutturata e politica, ma semplicemente a favore della NATO. Anche con un discorso sbagliato sul né così né colà, che anche quello è un altro discorso deviante su quello che è un posizionamento politico all'interno dei conflitti di guerra e non solo. Però poi quando si tratta del conflitto in Palestina non si parla neanche più di pace. No, no, la narrazione è assolutamente unilaterale. Non si sa a che titolo il popolo palestinese non si può difendere, non può No. difendere il proprio territorio, non può cercare di liberarsi da una situazione di campi di concentramento in cui è rinchiuso, perché diventa aggressore. E Israele, poverino, era aggredito. E Quindi quindi niente. magari insegnare o far capire, perché già anche noi insegnare non è che ci piaccia tanto il termine insegnare, ci fa più piacere dire, cercare di spiegare, di far capire o comunque di mettere in condizione di capire come stanno le cose e quindi cercare di far capire la differenza fra aggressore e aggredito. In una scuola sarebbe molto importante. Ciao! Ciao a tutte.